Come ho già detto, il governo intanto auspica che la trattativa si concluda nella sua sede naturale. Naturalmente noi ci rendiamo disponibili eventualmente ad un tavolo di mediazione, di contrattazione. Naturalmente quando parliamo di retribuzioni parliamo di potere d'acquisto. Il potere d'acquisto può diventare più robusto a due condizioni: la prima, che si facciano i contratti, possibilmente nel tempo giusto, e la seconda condizione è diminuire, come abbiamo già detto, la pressione fiscale sulle retribuzioni.